l'acqua, guarda. C'è acqua dietro, c'è sempre l'acqua. Prego. Normale, normale. mondo se toccava, dai, capito? Però io dico a capire bene. KK, questo è buono l'apparecchio. Questo è nuovo, dai, c'ha un anno di vita. Questo qua è l'Intec 550 Power, lo conosci? No. Ehi, l'ultimo, cioè, quello della Intec, dai. Il microfono è il suo, è tutto suo, no? Io ho un microfono amplificato, non ne ho. C'è l'eco dell'apparato, è tutto incorporato. Prova a toglierlo. Guarda che l'ho tolto. Eia, che pulita, però vuole spingere un po' di più. A me piace più con l'eco. Mi piace di più così, con l'eco. Comunque è bella, vero, la modulazione. Sì, questa è bella, qua c'ha l'eco di più, è basta, solo che è come che stai parlando tipo 1,3 metro al microfono, si sente molto l'effetto camera. Beh, 1,3 metro, ma è proprio il tipo di eco, ma è bello comunque. Sì, credo che è bello, però mi sembra che sei più lontano, lontano dal microfono parlando. Sì, KK, adesso mi ha tolto anche il bip. Questo, eccolo qua il bip. È come questo, solo che uno in più c'è l'eco. KK. No, è un po' particolare questo. E che cosa? L'Intec? No, io c'ho in gara. Questo c'ha anche il frequentimetro, quello ce l'ha. Ho negativo. Prova a salire di una banda. Dove vuoi andare? In banda E. 45. Ehi, siamo su, come 45, però sempre su questo canto, anche se non manda il gruppo. Gaffa. Tu me lo devi dire che canale è? C'è sempre su questo canale qua. Via, c'hai le bande, no? Devi andare in banda E. Lo so che devo andare in banda E, però qua non lo scrive banda E, qua mi scrive il canale reale, per esempio 51, 52, 45, 40, cioè inizia così, inizia a 41, 42, 43, più o meno contando quanto deve arrivare. Sì, sì, allora, sul 21, sull'81. 81, giusto? Sì. Sì, io intanto vado a cambiare l'acqua.